Durata giornata lavorativa, intensità normale del lavoro, forza produttiva del lavoro. Durata giornata lavorativa, intensità normale del lavoro, forza produttiva del lavoro. Forza lavoro e plusvalore sono in rapporto inverso. Forza lavoro e plusvalore sono in rapporto inverso. Aumenta produttività e plusvalore, si abbassa forza lavoro. Aumenta produttività e plusvalore, si abbassa forza lavoro. Eliminazione capitalismo per limitarci al lavoro necessario. Eliminazione capitalismo per limitarci al lavoro necessario. Distribuzione proporzionale del lavoro fra i membri della società. Distribuzione proporzionale del lavoro fra i membri della società.